In merito al tema della religione, Gesù ha espresso una verità che ha rivoluzionato e rivoluziona il rapporto del credente con la divinità. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Giovanni 5:24. Con questa verità Gesù ha messo in evidenza i due più grandi errori commessi dagli uomini nel campo di ciò che è sacro. Il primo è adorare la divinità con delle immagini. Il secondo è adorare la divinità nel modo non giusto. Il primo errore è tipico dei pagani, che hanno bisogno di rappresentare la divinità con una qualsiasi immagine corrispondente o meno all'essere umano, tra i quali sono i cattolici che hanno migliaia e migliaia di immagini ritenute sacre o degne di essere adorate o venerate. Il secondo errore è commesso da chi non ha immagini, ma che, per ignoranza o altro, adora Dio in un modo a lui non gradito. Tra questi sono i protestanti che hanno rifiutato di avere immagini nei loro culti, ma nelle loro preghiere e nell'adorazione non sono guidati dalla verità. Poiché l'adorazione rappresenta la forma di preghiera più elevata, poiché è l'attività più grande e più nobile di cui l'uomo per la grazia di Dio è stato reso capace, è più che opportuno prenderla in esame, per verificare se adoriamo il Dio Trino nel modo in cui deve essere adorato. Come abbiamo detto, l'adorazione è una forma di preghiera. La preghiera infatti si esprime in varie forme. Vi è quella di intercessione, di richiesta, di supplicazione, di ringraziamento, di lode e di adorazione. La preghiera di intercessione è quella fatta a favore degli altri. La preghiera di richiesta è per i bisogni personali. La preghiera di supplicazione è quando si implorano le promesse di Dio. La preghiera di ringraziamento è riconoscere i beni ricevuti. La lode è il riconoscimento di quello che Dio fa. La preghiera di adorazione è un insieme frutto di consapevolezza della santità di Dio, dell'esercizio di una mente piena della verità di Dio, del concentrarsi per immaginare la bellezza e la grandezza, aprendo il proprio cuore al suo amore e sottomettendo totalmente la propria volontà ai suoi scopi. In definitiva, la preghiera di intercessione, di richiesta, di supplica esprimono i nostri desideri, mentre le preghiere di ringraziamento, di lode e d'adorazione riconoscono i desideri di Dio. Importante avere un cuore riconoscente e pieno di lode, ma lo è ancora di più avere uno spirito di adorazione. La preghiera di richiesta e di ringraziamento accompagna in ogni istante un credente in Cristo. Quando si alza, sul lavoro, nelle necessità della vita, prima di mangiare e di coricarsi, negli incontri speciali e formali, mentre l'adorazione per molti è quasi sconosciuta. Cos è dunque l'adorazione? Essa è innanzitutto un'attività che si centra solo su Dio, su ciò che Egli è e ciò che fa. Il salmista lo esprime molto bene con questo invito: venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti. Poiché Egli è il nostro Dio, e noi siamo il popolo del suo pascolo, e i gregge di cui Egli si prende cura. Salmo 95:6-7. Quando si adora Dio, si dimentica di se stessi. Si dimentica la propria miseria e i propri peccati, e ci si preoccupa solo di Dio. Nella vera adorazione i problemi umani non sono presenti, come non sono presenti i nostri problemi in un momento di intensa gioia. Questo non significa che il credente debba arrivare ad una esperienza mistica, mediante la quale non è più a contatto con la realtà del presente, ma come nel giorno di gioia del matrimonio della propria figlia, non è il momento di pensare ai debiti. Così quando il credente è alla presenza di Dio e adora, non è il momento di piangere sulle proprie mancanze, confessare i peccati, chiedere perdono, rammaricarsi, perché non si è quello che si vorrebbe essere, sono sintomi che svelano una mancanza di una vera adorazione. L'adorazione è giubilare, cantare lodi, riconoscere la maestà di Dio, è esaltare Cristo Gesù quale Signore Salvatore, è avere un cuore riconoscente al punto da non poter tacere. Un episodio negli Evangeli in modo particolare ci narra di persone che non riuscirono a tacere dalla gioia. Vicino al mare di Galilea, Gesù guarì un sordo che gli era stato presentato da alcuni, e dopo di ciò troviamo scritto che Gesù ordinò loro di non dirlo a nessuno. Ma quanto più lo vietava loro, tanto più essi lo divulgavano. Marco 7:36. Se queste persone non potevano contenere una gioia terrena e limitata perché comunque avevano altri problemi nella vita, e hanno dovuto passare attraverso l'esperienza della morte, quanto più chi ha posto fede in Cristo per ottenere una salvezza eterna, ha mille ragioni per non tacere e adorare il suo Salvatore. Una prova che la cristianità non ha compreso il valore dell'adorazione è che spesso passa più tempo in preghiera per chiedere che per adorare. Una ragione per cui è così difficile adorare il Signore Gesù è data dal fatto che per un'inclinazione naturale noi siamo egoisti, e per questo siamo tentati continuamente a chiedere. Nella chiesa alla quale appartengo è stata scelta una mia proposta di trascorrere un giovedì al mese solo ringraziando, lodando e adorando il nostro Dio. Eppure, in quella riunione, che rappresenta una vera sfida al nostro egoismo, ci sono sempre pochissime preghiere tese solo al riconoscere i bisogni di Dio. Io stesso devo controllare la mia bocca perché mi viene spontaneo iniziare con la lode per poi terminare con una richiesta. Il problema dell'adoratore non sta nel pensare a Dio, ma nel dimenticare se stesso. Siamo talmente occupati di noi stessi, siamo talmente abituati a pensare che il mondo gira intorno a noi, che ci è difficile ed inusuale dare tutta l'attenzione soltanto a chi la merita. Per questo, l'adorazione diventa l'attività che più di ogni altra ci esercita ad essere altruisti, a pensare agli altri. È l'attività che mette a morte il nostro orgoglio ed egocentrismo. Perciò, è possibile avere delle forme di adorazione a prescindere dalla nostra comprensione di ciò che Dio è e ciò che ha fatto. È possibile imparare la forma senza che l'anima sia passata attraverso una consapevolezza conscia e personale di Cristo. È pure possibile ritenersi forti ed appagati da vivere ogni giorno sulla base della propria etica senza il minimo di riconoscenza e di spirito d'adorazione. L'adorazione è quell'atteggiamento e quella disposizione che coinvolge la coscienza, nutre la mente, purifica i pensieri, apre il cuore e piega la volontà. È una virtù che coinvolge tutte le nostre facoltà per innalzarle verso l'ammirazione, la contemplazione e il timore di Dio. La mia normale esperienza è alzarmi al mattino con un canto di riconoscenza, adempiere alle normali attività della vita, adorando, rendendo grazie e lode in ogni circostanza favorevole o sfavorevole. Vi è nel mio cuore, come nel cuore di ogni figlio di Dio che adora, un appagamento per essere stato accolto alla presenza del Dio Trino, per avere avuto l'accesso alle rivelazioni profonde del pensiero di Dio, per aver ricevuto la mente di Cristo per poterlo adorare, il Dio che desidera la nostra comunione con Lui, anche se Lui non ne ha bisogno, non chiede l'impossibile, anche se è impossibile poter soddisfare la sua volontà perché Egli si aspetta da noi solo ciò che Lui stesso ci ha dato. Perciò l'adorazione è un dono che la persona dello Spirito Santo ha dato a tutti coloro che gli appartengono, e a costoro è dato il compito di custodire tale dono. Dono che si conserva con un cuore puro e sottomettendosi alla volontà di Dio. Per quanto comprendiamo l'importanza di adorare Dio, sembra che l'adorazione sia ritenuta una delle attività meno importanti e redditizie. Si pensa al grandissimo valore della testimonianza, della predicazione dell'Evangelo, delle opere sociali. Ma occorre riconoscere che ogni attività, se non è stimolata, accompagnata e terminata da uno spirito di adorazione, non ha il valore che dovrebbe avere. Ogni grande azione compiuta nella Chiesa di Cristo è stata compiuta da persone che adoravano Dio costantemente. Grandi ospedali sono stati costruiti da persone che adoravano Dio. Istituti di salute mentale sono stati ideati da persone che nella loro vita erano pieni di riconoscenza e di adorazione verso il loro Salvatore. Quando la Chiesa è uscita fuori dal suo letargo per entrare nei torrenti del risveglio e del rinnovamento spirituale, dietro a tutto questo c'erano degli ignoti adoratori di Dio. Adorare è l'attività dinamica che produce altre grandi e giuste attività. Ecco perché l'adorazione deve essere il primo obiettivo del credente. Ma come non è possibile amare ciò che non si può in alcun modo comprendere, così non è possibile adorare un Dio del quale ci sono nascoste per esperienza le sue qualità intrinseche. Possiamo anche sviluppare una specie di riverenza per gli ideali nobili che il concetto di Dio porta alle nostre menti. Possiamo provare un certo timore quando pensiamo all'Altissimo e al Santo che dimora nell'eternità, ma essere ancora molto lontani dallo spirito di adorazione. Quando il cuore lamenta la propria freddezza nei confronti di Cristo, quando lo spirito di servizio è demotivato, non occorre intraprendere nuove attività come se fosse possibile correggere una mancanza di direzione aumentando la velocità, ma è imperativo ritornare al giusto atteggiamento che deve avere la creatura nei confronti del suo creatore. Adorare. Dobbiamo ricordare che ogni breve visione dataci del cielo e delle creature di Dio è sempre una visione di adorazione, di esultanza e lode per il fatto che Dio è e per chi Egli è. Dunque, sperimentare l'attrazione del Padre, ascoltare la voce dello Spirito Santo, dirigere i nostri sguardi verso Gesù Cristo, abbracciare per fede la persona beata del Figlio di Dio, amarlo senza averlo visto, credere in Lui senza vederlo ancora, questa è la vera vita in armonia con l'esistenza ultraterrena di adorazione. Purtroppo, come disse un grande uomo di Dio, l'adorazione accettevole a Dio è il gioiello della corona mancante nel cristianesimo. Noi siamo stati creati per adorare come alcuni uccelli, per fischiettare. Se non adoriamo Dio per mezzo di Cristo, molto probabilmente stiamo adorando Satana. Con una differenza. Mentre Dio si adora spontaneamente, Satana si adora obbligatoriamente. A noi la scelta. Settembre 2005, Ellero.